375. Pasticcio di fegato. Servitevi del composto numero 374, aggiungendo soltanto grammi 30 di tartufi neri tagliati a spicchi e facendo loro alzare il bollore nella marsala prima di spargerli nel pasticcio. Copritelo con la pasta del pasticcio numero 372. Cuocetelo in forno o nel forno da campagna e servitelo freddo. Potrà bastare anche questo per 12 persone. Erbaggi e legumi. Gli erbaggi, purché non se ne abusi, sono un elemento di igiene nella cucina, diluiscono il sangue e, amalgamati alla carne, rendono questa meno nauseabonda, ma il più o meno uso dei medesimi, in un paese qualsiasi, dipende in gran parte dal clima.